pomeriggio meglio questo. Ehi, cos'è Grudino, eh? Affermativo. No, mi croce, all'inizio. Fatto, bagaccia di offesa. Questo è una radio così, c'è Grotto, perché? E infatti, mi sembra che fosse la lei, ma uno può sempre migliorare, no? Sì, perché lui già è facile migliorare, non è che sia difficile, eh? Durerà sino lunedì a martedì, che c'è un freddo pazzesco. vabbè, Marco, io ho le chiavi, te lo sai, che non devo stare, non è che... L'ho fatto un po' un inganno perché me l'ho fatto apprestare da un condominio e poi me l'ho fatto un doppione. Però ogni volta devo stare a chiedere, a chiedere perché, per come, mi sono rotto le scatole adesso. Mamma mia, non è uso le chiavi, apro solo la porta, buonasera a tutti. Guarda, c'è il Kazaki, tanto ti metto di famiglia. Ciao Gianni. Ciao, mi sentite anche a te. Lo so, tu sei come Pietro, come San Pietro, che apre la porta del paradiso. E apro la porta di casa mia, non volevo chiedere a nessuno, sopra un punto di muovo. Fabri, c'è un'aria carbonata, una cosa indescrivibile. Lei ha chiesto che ha fatto un suono poco fa, una cosa impressionante, capito? Una cosa impressionante. Noi avanti, adesso pronto? No, niente. Adesso niente, non mi chiede più, cioè, non sono operativo, devo fare detto contro. Tra una cosa e l'altra, se sono, sto facendo una cosa, non riesco a fare l'altra. Se ci avevo di mente avrei mandato le foto della gabbia, perché la gabbia l'ho finita col rotore, col master, tutto quanto, l'ho già pronto, ho finito ieri sera, devo fare solamente il cuscinatore di spinta, che è quasi costruito il pezzo, ma giovedì mi procurano il cuscinetto, e quindi ci lavoro, aspetta che rispondo al telefono. No, la mia è già pronta, già sotto il tetto la gabbia, tutto, devo montare l'altra direttiva grande. Se non cambia il tempo così, ma già sto lavorando anche così. Va bene, sei arrivato Gianni? No, ma io attivo, sono sempre su strada, ma io quello che qua, questo motore si sta schiarendo qua, se non è due giorni ingannabicini. Sta praticamente tutto chiaro qua, questo conduttore, se non è questo conduttore, ma stamattina è tutto abbassato, aiuti. E qua, io sono uscito poco fa. Non metto la macchina dentro, che l'avevo lasciata fuori, e tra l'altro c'ho due tubi slingati da 2 metri l'uno, che lo devo portare su, e invece li ho lasciati nella furgonetta, me li porto domani mattina. Un casino, e vabbè, il tempo suo è il tempo suo. Ecco, è vero, ma è meglio stare a Calduccio quando... Stamattina io purtroppo stavo lavorando. Io stavo lavorando stamattina, ho detto bambini finiti dalle tre. Se raffredda. dire con le poche persone che mandano avanti le cose. Però purtroppo io ho l'antenna attaccata, il cavo lo uso per l'altra antenna e quindi non posso stare a destra e a sinistra. Ma quando posso già entro a salutarvi come adesso e come farò sempre, non c'è problema. Ok, microfono a Gianni, vediamo se è già arrivato, così lo saluto prima che lo perda. Ciao Gianni, un caro saluto e fatti sentire. Ho visto anch'io, ma diventa un po' monotona la cosa, capito? Tenendo conto che, come dice Antonio Maria Filippi, invita queste persone già sapendo quali sono i loro problemi, quindi invece di invitarli e fare shopping in diretta, è meglio che ogni tanto si metta la mano sulla coscienza e sopra il portafoglio e lui stessa veda di aiutare queste persone bisognose invece di rompere le palle. Ciao Gianni, un saluto, ciao Antonio, ciao Fabrizio, passo il MQRT e mi butto dalla finestra. No, a te Gianni. turno, non c'è problema. Capito, ancora, ah, ma ci vediamo. No, mi sono allontanato un attimino, penso che chiesto. C'è le orecchie di porco, capito? Non esce quello più le orecchie di porco. E ogni volta tutto quello che scende in 2 metri viene qua e lo riferisce, hai capito? No, non ci credo, non ci credo. Siamo morto, Fabrizio. Sono qua, mi sto scaricando roba per il bambino, che purtroppo un po' di fumbri, sempre problemi, ma si può stare tranquilli. Oh, ma... Poscio. E qua c'è la gente, posso dire che c'è un baracco, altro posso dire, purtroppo che è morto. Allora, due galaxy al petto di uno, anche il mio lo porto, ma spazio già ne ho, potevo anche lasciare, ma li porti tutti, e mercoledì sei comunque uno stronzo, capito? Perché per me a farmi compagnia era come quello più a chiamo per fare la radio. Adesso vediamo, faccio un bel ricordo, che domani, vabbè, lavoro, per lunedì c'è un appuntamento, martedì una riunione non importante, importantissima, che si va del futuro in un'area di gente che di lavoro, un casino, fatto solo se ci fa. Mercoledì poi devo lavorare, un casino, non so, gli impegni con i bambini, non so se devo portare a fare delle lezioni ai bambini, un casino, io sono figli piccoli, non ho bambine grandi che ancora da dare il matrimonio, capito? Io ho bimbi piccoli che vanno accompagnati ogni momento, un casino. Perché ce la risponde, se no c'ha ragione. E poi secondo me sono i bambini che portano a lui. E poi impegni, ma devo rubare con il San Carmino, che fuori male. 2 ore mi ti ho detto, andiamo e torniamo. Ma neanche risponde, vedi, neanche risponde. Vediamo, ti ho detto, cacco, vediamo. Caramonti. Allora, no, cosa è successo? A rischio errore, non mi dire, cos'è? Vale, è già tutta la radio accesa, non capire più niente, tutte le frequenze che ha. Oi, oi. Oi, oi, oi, oi. È tanto scimpallina, tu. Però gli ho visto, deve essere l'età, però gli ho visto già le antenne piegate, Fabri. Sei tutta a destra, attenzione. Guarda, qui cosa sto facendo, c'ho 1, 2, 3, 4 radio accesi, poi c'ho il PC, il PC in funzione, poi c'ho il portatile, quello che ho, che devo installare dei programmi perché purtroppo per mio figlio, cacchio, mi si è impallato un console, non riesco più a capire niente. Senti che se ne sta aprendo la moneta, non ho capito cosa sta succedendo, ma dischi in errore, basta solo che sia sfasciato, È la ventola della gugliuppa, come dice Claudio. Speriamo che riparta tranquillo, perché va con l'importante che sto facendo. Mi avvio di Windows, speriamo. Me l'immagino la cosa importante che stai facendo, nel sottomarino. Proprio importante, non l'avrei voluta fare, però la devo fare, poi ho perso un po' di cose, Impegnato, un bel impegnato. Cattivo, tu mi hai detto, guarda, ecco, da fra un paio di mesi lo sentiamo, ecco, dall'altra parte, invece niente, due. Ma l'hai... ma tu il sottomarino l'hai mai visto? E qual è il sottomarino? Passa la radio di Fabris. Ce l'ho vista, lo spazio è quello, purtroppo bisogna accontentarci. Se parte la scintilla fa la fine di Nicky Laudami. E infatti deve fare posto lì, capito? Deve toglierti quei baracchini che c'ha e mettere dentro l'armadio come ho fatto io. a mettere le cose essenziali blu. Poi lì cambia di fana, lei lo sa quando gli arriva le radiazioni? Già lo so. Io qua, è piccolino, non so se avete visto un tempo come l'ho attrezzato, è piccolino, ma guarda, in questo posto ci sta ancora la roba. Una, due e tre HF. Una VHF la base, grande come l'OT50, una che la conosci, quella attaccata al muro adesso, del veicolare, che non mi manda, e poi, ecco, questo è quello che c'è, ci sono quattro microfoni che sta a fare, e io ho anche lo spazio per fare laboratorietto, frequentimetro, di San Battore, generatore di eventi. Tu non hai visto il drop, ho preso il multimetro, il cofittit, l'ignaretto e vari altri alimentatori. E c'è ancora spazio per fare qualche altro piano, capito? In questo buco. Ma cosa c'hai? L'asciugacappelli acceso, i capelli ti stai asciugando? No, il computer del bambino. Il computer del bambino, quello che ho comprato per il bambino. Informazioni, file, testi di lettura, vabbè. Allora, informazioni, uscita audio, che palle, cattivo, tanti queste cose, le voglio, riprendi, se te lo faccio sulle studio da te, tu me lo scrivi tu. Forse è meglio, ascolta, una cosa volevo chiedere, ma a Claudio, ma le frequenze radioamatoriali realmente quali sono, tolte quelle HF? Tolte quelle HF, vabbè, quelle HF sono 10, 15, 20, 40, 80, 160, che poi praticamente da uno, da 1008 sino a 3000 come passaggio di VFO. E le altre sono da 144 a 146 per quanto riguarda le VHF. Lì se spazi poi trovi tutte le varie persone che parlano, poi ci sono tutti i vari ponti eccetera eccetera, però da 144 a 146 quelle sono tutte frequenze amatoriali, e da 430 a 440 sono frequenze amatoriali in UHF, quindi basta che tu spazi da una parte e dall'altra. No, perché realmente non avevo mai trovato un remake che tiria esattamente le frequenze che radioamatoriali, capito? Uniche e sole. Ma è un po' così, un po' qui, ogni tanto aprono qualche frequenza, lo stesso la danno sempre ai radioamatori. Senti, a me, se vuoi te lo mando io, se no tu digiti dalla sezione grave oppure fai scrivi frequenza radioamatoriale in Italia, o neanche le trovi su e ti da tutti gli elenchi prestanti. Sai che ho scaricato un software sul tablet dove non so a quale ponte si è collegato, però ti fa sentire tutte le frequenze per nazione e dopodiché va per città e ti fa sentire tutte le frequenze, diciamo ti collega i punti radioamatoriali di tutte le città del mondo. Bella cosa, quanto programma c'è anch'io. Vabbè, ma ci sono, dai, in un SWPL già ci sono, c'è la tabella delle frequenze. Se te le scegli te le dico in diretta, non è un problema quello tu. Però quella principale monitor, come può essere per noi il canale 10 o il canale 5 della 27, noi ci abbiamo 145, 525, che lo sa tutto Sassari. Noi lì parliamo, facciamo salotto, poi i vari ponti sono sempre a salire. 145 600, c'è l'R0, 145 625, c'è l'R1, 145 662.5, c'è l'R2 alfa e così via. Sono tutti punti che praticamente tu ascolti sino ad arrivare a 145 750, che è l'R7, c'è cioè l'R8, vai a fanculo, l'R6 e 145 787.5, che è l'R6 alfa, capito? Quelle sono le basi principali, noi siamo sempre lì. E poi in UHF 400 430 100, che è l'R1 4, che praticamente è quello di Ugio, 24130 075 che è quello di Monte Alvaro, non è che ce ne sono molti, eh. Ma quelli l'avevo già, ce l'avevo già censite, quelle frequenze lì. Ma perché è facile trovarle? Assolutamente. Ma voi parlate in duplex? No, noi abbiamo la monitor, ti ripeto, il VHF che è 145-525 e la monitor, sempre in diretta, per Sassari 433-500, capito? Quindi a volte se io per dire sono a 525 in VHF c'è qualcuno che parla in UHF, quindi avendo due radio e le radio come anche hai tu, che c'ho io, c'è anche Fabrizio che c'ha il doppio ascolto, uno parla una parte, uno parla l'altra, quindi non senti magari il corrispondente, ma c'è qualcuno, capito? A volte si parla in duplex, a volte si parla in diretta singola. No, radio duplex io non ne ho, c'è solamente un ICR6 in ricezione. È tipo quella lì, dai, che c'ha il doppio ascolto, volevo dirtemi, quella lì, capito? Quindi dovresti sentirlo, se uno parla in UHF o viceversa li senti contemporaneamente, perché quella radio c'ha il doppio ascolto. Purtroppo c'era in previsione tutta una serie di acquisti, ma quella è decaduta, ma né più né meno come è successo, non sapevo che, perché non è successo la volta scorsa, sono stato avvicinato da una persona, un personaggio più che una persona, che evidentemente pensava e ha visto in me una persona che poteva passare l'esame, e non so se mi aveva portato mezza sfiga, che comunque non è uno dell'ARI, ma è di un'altra associazione, a quanto ho capito. Prego. Che l'hai passato magari? No, negativo, non ho copiato, registrato il break. Non ho copiato cosa hai detto, Fabri. E quello lì è passato, quello che si è messo a fianco a te. No, negativo, non si è messo a fianco a me. Era uno che aspettava gli esiti dell'esame per gli altri, che aveva portato una greffa di persone che mi avevi detto tu che avevano striato, e di quelli ne sono passati la metà. Allora era quello. Avanti il break, allora buonasera. Sì, facciamo il tour, dai, Massimo Bulldozer qua. Sono entrato anche poco fa, ciao Fabrizio, ben sentito, tutto qua. No, ma si mi ha ricambiato il centro, il saluto. No, era, ma perché, hai capito chi è? No, non sono sociali quelli, sono soci CISAR, capito, che è un'altra associazione. Ehi, K, quello ho detto, non era un socio ARI, ma era un socio della CISAR, una cosa del genere, che a livello europeo non ho capito che cosa, e appunto mi stava chiedendo se fossi interessato all'apertura di un'associazione qua a Sassari. Siamo pochi gli iscritti CISAR, eh? Sì. Affermativo. K di Roger, allora, ti dico la verità, Fabri, io gli ho fatto il tuo nome, mi ha detto che assolutamente no. Non so un cazzo, allora c'ho l'email, me l'ha mandato anche l'email, dico un cazzo, non so dove. Siamo pochi. Io l'ho fatta per un semplice motivo, perché mi serviva l'assicurazione sulle antenne, e siccome so che siccome ho colleghi dagli amatori che sono di Porto Torres, in iscrizione, e mi stanno facendo la corte, rompendomi le male, io non mi volevo iscrivere a nessuna parte, la verità. Poi a Sassari, lo stesso, essendo di Sassari, allora per non fare scontento a nessuno, e so che ci sono stati dei problemi in tutte le sezioni, ho preso e ho fatto questa qua fuori, che non c'è niente in Sardegna e via, poi se una mano per qualsiasi cosa in qualsiasi attività, anche economicamente, che ne so, se una sezione di risalto deve mettere un conto nuovo e chiedere, che ne so, una quota a ognuno, io a parte non la metto lo stesso, un esempio fatto, non mi frega niente, però per non avere problemi con i miei colleghi, capito? Vabbè, non mi sono iscritto con nessuno, cioè ho iscritto con questi per avere assicurazione, nessuno, e comunque avere una specie di tutela o qualcosa, con qualche cifra che mi sembra giusto, dai, ripeti. Comunque ti stavo dicendo, questo qua mi ha detto che hanno aperto una sede a Nuoro, tanto è vero che ripeto, io mi ricordavo che tu me l'avessi detto, non lo volevo dire adesso perché ognuno sa di sé, non ci mancherebbe rendere pubblica una cosa, poi uno può anche non volere, tanto è vero che sei tu da un'altra persona, gli ho fatto i nomi tutte e due, e questo qua mi ha detto assolutamente che l'unica sezione aperta era quella di Nuoro e quella di Cagliari, e che questi davanti dai nuvoli che uno si ritrova. Stiamo parlando di una persona che è responsabile a livello, lui dice, nazionale, poi ragazzo mi ha detto. Cioè, ha detto che si rinano, perché se io non ce lo faccio nel mio PC, se io guardo qua, vado nella posta IS0, forse in arrivo, proprio qua, Giuseppe, chi è scritto? Ecco, Giuseppe Misuri. Salve a tutti voi, vi ricordo l'assemblea dei soci di Campobasso al primo Biella per un portante del nostro sodalizio, fino a rendere partecipi a tutti i soci che sono potuti intervenire rispetto al confronto del presidente della CISA per il giorno venerdì 30, capito? Ecco qua, e questo è il mandato a Giuseppe Misuri, non so questo chi è. Questo Giuseppe Misuri, lui. Ma tu, quando se lo rivedi dici, sei un po' rincoglionito, perché gli hai scritto tu, da Giuseppe Misuri, Gimmetto, capo, mi ricordo l'assemblea dei soci, mi ha scritto lui, mi ha scritto come soci, scritto C internazionale, convocato nella conferenza dei presidenti, hai detto? Sì, capo, evidentemente un po' rincoglionito. Ha lasciato anche, aspetta, ti dico subito una cosa, aspetta, mi ha lasciato un bigliettino da visita un attimo. Riprendi Massimiliano, riprendi Massimiliano. Oh, ho chiamato, mi sono allontanato un secondo. E via. Poi stavo ascoltando il discorso, l'ha vinto. Vuoi poter? La promozione che dai. Se mi costringe te lo dico, stai attento, non mi provocare. Altri che in mezzo le grade, non saranno. Ma c'è qui ascherato, quindi c'è proprio che ci sono. KK, lo stavo dicendo, non mi ricordo più, vabbè. Poi la prossima settimana faccio vedere una cosa nuova, Massimiliano. Devo andare mercoledì a prendere la Chiaramonti. Sperando che questa volta non ci sia qualche cos'altro che succede, perché se no qui così infatti diventa un casino. Positivo, aspetta, scusa un attimo Fabio, ma là, ti sto ascoltando bassissimo di segnale, ma proprio basso, basso di segnale. Sono col barracchino, non si è aggotta l'antenna, non c'è a vedere. Ma ci picchia, adesso salito. Adesso sei tu, vedi tre. Sette o tre? No, là c'è qualcosa che non va. Questo passaggio si è salito quasi a 9, quasi, non superi 9. Io metto segnale, credo 9.40 col baracchino, qua forse il tuo. Quanto sto arrivando io invece? Vediamo un attimo, probabilmente avrei sei tu, Sono io, dici? Boh, se saltiamo a 9 tu qua. State sovramodulando, vi siete. Dito sì, Santiago 9. Come mi ascolti a me col baracchino, Anto? Io siamo troppo vicini, 6.960, spaccatura qua. Anche tu, quindi la ricezione ce l'ho. Ma si vedrà, togli l'attenuatore da quella radio e girami le balle. Tolto. Ah, e adesso com'è? E adesso sei sempre uguale. Controlla allora qualcosa, perché tu qua il tuo segnale c'è, che ti hanno a farci fare in culo con la radio, ma c'è bastone, io sto andando con 10 watt, questo barchino da 10 watt. Sì, no, anche io, tutti che dicevo 9.20 e io 9. Ah, ma ha dato 3 a me. No, 6, 3, capito, 6, 3 a picchi di 7. E a picchi di 7. E 3 siete tutte e due. Controllate che l'antenna sta facendo sotto a capo. Faccio così allora Gigi dalla Vatè, questo è un presidente Lincoln, nuovo, l'ho comprato, HR2310 con l'MC80, figurati tu. Va molto bene, soprattutto in 10 metri va bene, schicchietta forte. Avanti, Anto, guarda, mi dice la Fabrizio, scusa che ti ho rubato il microfono. Allora, ho trovato finalmente il biglietto della visita ed è dell'ERA, European Radio Amateurs Association, sezione provinciale di Cagliari, che ha sede operativa a Quarto Sant'Elena, via Maldive numero 1. E poi c'è un numero di telefono. Come dicevi, ho sentito questo bigliettino che c'avevi, come dovrebbe risultare? Cosa che stai dicendo? Ho sentito che avevi questo bigliettino, come dovrebbe risultare a me? Risultare se sono loro, questo dell'ERA, European Radio Amateur Association, sezione provinciale di Cagliari, e... l'email è eracagliari@eracagliari.eu. Allora, io sto parlando Giuseppe Missuri, mi riparo all'Assemblea dei Soci di Campobasso, accompagnati del nostro la fine di Renda per tutti i soci, non sono potuto intervenire. Articolo tra tutto qua, non ti incontro convocazione di 30 all'ente associativo. Comunque questa qua è la CISAR. No, questa è l'ERA. Era. Non è la CISA, l'ho sbagliato io prima. Ma io non voglio il telefono di questa persona. No, questa è un'altra cosa. Giuseppe Missuri è il presidente Italia Whisky 5. Forse non riesco a leggere qui, c'è su, no, non si vede, non ripete, aspetta che apro l'email. No, comunque non è lui, evidentemente comunque qua in Sardegna sta entrando un'altra associazione che è di radioamatori, che è questi dell'ERA, che hanno già sede a Nuoro, però dice che non stanno più raggiungendo il numero di iscritti e quindi vogliono aprire a Sassari, capito? Sì, ho capito. E siccome anche loro, come hai detto tu, come questo che ti hai detto tu, hanno un'assicurazione sulle antenne, facevano forza su questo, che ti assicurano tutta una serie di cose, non ultimo anche le antenne stesse. Ma attenzione però che l'unica associazione riconosciuta è l'area a livello nazionale, come assicurazioni, è la CISA e basta a livello nazionale. Poi questa ERA cos'è? Un'associazione privata, Antoni, che cos'è? Beh no, loro si definiscono a livello europeo, attenzione, riconosciuto a livello di assicurazione, chiunque, qualsiasi associazione può fare per i propri soci un'assicurazione per le antenne, però loro dicono di essere a livello europeo, non so più cosa, tanto vero che stanno secondo me giocando più che altro a scalzare l'ARI, ma non ci riescono, però dice che un po' di gente che è andata via dall'ARI sta defluendo nella loro associazione. Io quest'anno non ho rinnovato l'ARI, ma il prossimo anno rinnovo perché adesso che monto la direttiva non voglio avere rotture di scatole e quindi il 2013, a gennaio 2013 rinnovo di nuovo perché vabbè, io sono più un po' più affezionato all'ARI, però a livello nazionale è conosciuta la CISA, questa io non l'ho mai sentita sinceramente, però se tu dici che è riconosciuta a livello europeo, allora non so che dirti, non metto lingua perché non sono preparato in materia. Va bene, cos'è che c'hai Massimiliano Vucci, cosa c'hai? La voce? Ah, non mi hai detto niente? Non è detto, no, stavo controllando, Claudio, non c'era qualcosa di stazionario, di qualcosa, ma zero proprio completamente, non si muove l'ago stazionario, capito? Controllo il PL del commutatore lì in ingresso, non si sa mai se faccio lo falso contatto, perché effettivamente il tuo segnale è un po' più basso del solito. Io qua sono a 10 watt stazionario a 1-1. Quindi no, non ho problemi, poi sto baracchino non crea, non ci sono questo, l'unico baracchino che ho lasciato è che è abbastanza vasto come bande, però non, insomma, vabbè. E finisci con questo cazzo di PTT, ma hai rotto le balle. Esce il WL della minchia. Chi è che sta mettendo? Ti stanno mettendo a portante anche su qua in 27. Stavo dicendo, no, non l'ho detto io, attenzione, che sono riconosciuti a livello europeo, ma l'ha detto lui, poi non lo so se balla, mi ha detto balla, ti sto dicendo. Però so solamente che sono quelli che hanno fatto il corso a questi 5 radioamatori che avrebbero dovuto spaccare il culo sui scesi lì, e chissà perché però non è passato la metà. Ma di che cosa? Di quelli che sono passati che erano con te, 5 più 5? Che poi tra l'altro non è assolutamente vero, perché dice che erano molti di più, però ho detto guarda che a me mi hanno confermato che erano 10, tra l'altro divisi 5 in una stanza, 5 nell'altra, quindi non lo so, vabbè. Comunque quelli che sono passati sono due della provincia di Sassari, e gli altri tre sono del Medio Campidano. Come due della provincia di Sassari? Due di Sassari eravamo solamente in due? No, ce n'erano altre tre della provincia di Sassari, quindi sicuramente del paese, non so cosa ne so, Pozzo Maggiore, Tiesi, quelle zone, provincia di Sassari, capito? Così mi ha detto Walter stamattina. E gli altri tre invece sono della zona di Cagliari. Erano 5, eravamo 5 più 5, non c'ero io, quindi non è fauna. Eravamo addirittura, anzi erano 12 i candidati e due non si sono presentati. Una volta che eravamo in 10, siccome non ce l'hanno fatto fare nella sala grande, dove si fa di solito, perché non so per quale motivo, comunque le poste non gli hanno dato più quella sala lì, ci hanno fatto salire su nelle stanze loro, e c'è una stanza riunione proprio di fronte alla stanza dell'ingegnere De Picchio, come si chiama, e siccome in 10 non ci stavamo, hanno fatto 5 più 5 da una parte, quei 5 che se ne sono andati nell'altra stanza erano quelli che hanno fatto il corso con questi della ERA, che stavano già parlando di direttive, parlando di non so che cosa, parlando di altro, alla fine ne hanno fulminato due o tre, anzi, tre. Quindi quelli di Cagliari, del Cagliarettano, sono passati solamente in due di questi che hanno fatto il corso. Oh, non lo so, mi ha chiamato Walter stamattina presto, a me mi ha detto appunto questa cosa. Infatti ho detto, ah, sono già al corrente perché tra l'altro due di Sassari, a parte quello che tu ben sai, ho detto c'era Antonio, che non ce l'ha fatta questa volta. E basta, mi ha detto, ah sì, ho capito chi è. E mi stava dicendo appunto che gli altri tre sono del Campidano. E vabbè, che si facciano sentire, Giovitica. Cosa sta dicendo la portante che stanno attendo? E io attivo qui a lontano, ricordo forse qua. C'è una sovramodulazione, Fabri. C'è una sovramodulazione qua, eh? Dalla parte tua? Trappa. Non so chi è. Viene il formato Warner. Sì, e beh, noi informano ogni volta che ci sono gli esami, informano direttamente le sezioni, capito? Per appartenenza dei candidati, quindi per Sassari, anche se non si è soci, si sa che ci sono dei candidati di Sassari, quindi viene informata la sezione dell'idoneità, della cosa, come è andato l'esame, eccetera, anche per poi avere un riscontro al comitato regionale, capito? No, guarda, quelli che non sono passati di Sassari, che eravamo di Sassari, eravamo in due, e che se noi che non sono passati siamo io quello che hai capito, la professione che fa, ne abbiamo parlato già ieri sera. Sì, infatti. No, ma lui è già tre volte che è andato e a volte faceva la domanda come un altro, poi non ci andava. Questa volta neanche sapevamo che era andato, figurati. Perlomeno io non lo sapevo neanche a volte. Non lo sapeva nessuno, quindi. Se passava era una cosa incognita che faceva rimanere un po' perplessi. Perché molte volte ha fatto la domanda e poi non c'è andato per problemi qui e là, capito? Va bene. Massimiliano, non riesco a combinare niente, anche forse ho delle scariche allucinanti, invece sto cacchio di temporale è un casino, oggi non si vuole fare nulla. Ma dimmi una cosa, il radioamatore ha bisogno del patentino, quello limitato per l'utilizzo del VHF marino? Un radioamatore non può passare in quelle frequenze. Quel patentino limitato è per chi ha un natante, solo esclusivamente per chi ha un natante. Da terra, nelle frequenze marine, non si può assolutamente parlare, questo per statuto nazionale e per praticamente non solo i radioamatori ma per tutti. Il patentino delle VHF è rilasciato dalla capitaneria solo per chi ha un natante. Da terra, nelle frequenze marine, non si può operare. No, no, quello lo so, sui 156 e se non mi ricordo 6600, che fra l'altro la frequenza monitor per quanto riguarda anche l'allarme del canale 16 del VHF marino, però sto dicendo, siccome ci vuole quel tipo di patentino per poter avere il VHF in barca, il VHF marino, dico, se uno ha il patentino del radioamatore, c'è comunque bisogno anche di quello integrativo. Certo che sì, Anto, perché il patentino, la licenza, la patente da radioamatore consiste alle frequenze amatoriali e basta, quindi per quanto riguarda le VHF da 144 a 146, come ti dicevo prima, per quanto riguarda i 70 cm, quindi le UHF da 430 a 440, nessun radioamatore può sconfinare da quelle frequenze. Che scemo già c'è che si mette a parlare in frequenza marina, ma di quello non entro in merito di nuovo in questo discorso, perché vabbè, cioè uno può fare anche quello che vuole, poi quello di vantarsene è un'altra cosa. A prescindere da quello pensavo che uno chiedesse l'altro, per il semplice fatto che la volta scorsa, non questa, c'era una persona che diceva che proprio perché voleva una certa libertà nel poter utilizzare la radio all'interno della barca, si prendeva questa cosa qua così non aveva più bisogno di avere quel tipo di permesso lì, perché quello è un permesso, poi alla fine viene richiesto e te lo danno, capito? Assolutamente negativo, tu puoi rispondere con molta tranquillità che nessun radioamatore a livello mondiale può sconfinare dalle frequenze abilitate dal Ministero delle Telecomunicazioni, che quindi per le VHF 144-146 e per le VHF 430-440. La stessa cosa vale per l'HF, uguale 160 metri, 80 metri, 40 metri, 20 metri e 10 metri. Quindi da quelle frequenze non si può assolutamente sconfinare per quanto riguarda la radioamatore. Poi è chiaro tu che ne abbiamo già parlato. Ognuno fa quello che le piace, l'importante è che si assuma, ripeto sempre, come ho sempre detto e non mi stancherò mai di dirlo, la propria responsabilità. Perché poi è troppo facile dire ah ma quello mi ha detto, assolutamente. In tutti gli statuti c'è scritto, in tutte le anche le licenze SWL c'è scritto qual è il comportamento dell'SWL, che qui deve avere un ricevitore senza microfono abilitato esclusivamente alla ricezione delle bande radioamatoriali, e invece ci sono SWL che hanno il ricetrasmettitore, che trasmettono, che fanno, che dicono. L'importante è che non disturbino le bande amatoriali, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, tu già, cosa se ne frega. Vedrai tu quando apparterrai all'altra sponda, ti accorgerai quando inizi a scarrellare in HF le porcherie e le stronzate che ci sono in giro, proprio perché la gente non era fuggi nulla. Beh no, scarrello tuttora, perché ma non perché me lo permette l'attestato di SWL, perché poi sei meglio di me che l'attestato di SWL è una cosa che si richiede giusto per avere un numero, una sigla, se sigla si può chiamare, però è comunque registrata in una sigla di SWL assolutamente, e poterti iscrivere una sezione ARI. Però il radioascolto ormai è liberalizzato, quindi non c'è più bisogno di niente. Le sento, quello lì è ancora più triste, perché secondo me alla fine molte frequenze, soprattutto in HF, si stanno trasformando in bolgia davvero, gente che non che non ha proprio l'amore per la radio e fa solo casino e si sente. A questo punto non riesco a capire quale sia la differenza tra un radioamatore e un CB. No, cose veramente allucinanti. Io adesso che ci sono un po' di più nelle HF, mi accorgo veramente che in determinate frequenze, anche se sono praticamente a livello locale, quindi fanno salotto eccetera, ma c'è di tutto di più, musica, di tutto, a volte è molto più silenziosa la banda cittadina, come dice Quattro Radioamatore dell'Alta Italia, che stare in HF. Sono certe frequenze veramente fanno schifo, infatti sono frequentate sempre dalle stesse persone, al che vuol dire che tutto il mondo è paese, capito? Tutto lì. Però quello che si continua a dire è che per quanto riguarda le bande amatoriali è meglio stare sempre allerta, nessuno dice nulla, nessuno fa niente, però quando si va a disturbare, come c'è stato un periodo, adesso stanno nuovamente iniziando a pigiare la portante a 5.25, a eccitare i punti, a disturbare i punti, a fare prove, a fare provette, quello è molto pericoloso, perché forse qualcuno non lo sa, ma c'è un controllo abbastanza selettivo per quanto riguarda le VHF, proprio perché la sezione ARI ha deciso così, perché c'era un periodo che disturbavano molto i punti, disturbavano molto le frequenze amatoriali, e quindi c'è qualcuno che segue molto quelle frequenze con Radio Cognome e non ci mette neanche un attimo a sapere da dove stai trasmettendo e con che cosa stai trasmettendo, e quindi poi diventa una cosa brutta e noiosa, perché sembra che ci sia sempre qualcuno che voglia rompere le scatole a quell'altro. Basta non rompere le scatole e vivi, lascia vivere, a me esamina tutti, a me basta che non mi disturbano, non sto lì a riprendere nessuno. Anche l'altro giorno, come era già capitato a te, ero in 10 metri, c'era propagazione, sono salito, cioè ero al limite della telegrafia, quindi intorno al 28 075 055, c'era un QSO ben animato, non sono neanche entrato a dirgli niente, capito, perché non me ne frega nulla. So che per chi sta ascoltando dico state molto attenti, occhi aperti, perché in quelle frequenze c'è la condanna diretta, capito, quindi a cosa servi, no, capito? No, per registrare il break, il problema sai che cos'è? Che ormai le radioline, soprattutto VHF e OHF, hanno dei prezzi davvero ridicoli. Questa è una cosa positiva, diventa negativa per chi non ne può fare utilizzo, nel senso che davvero ormai con queste Bixiung, con queste Voxum, con queste Boafeng, con 35 euro ti compri un dual band e rompi, se vuoi rompere le scatole le rompi, capito? Perché comunque hanno un'uscita di 2 watt, 4 watt, i ponti li eccitano. E vabbè. Avanti Salvatore, con la buonasera. Salutoni a tutti, buonasera, ben sentiti tutti quanti. Ciao Antonio e ciao Claudio, non so se ci sono altri amici, dunque salutoni a tutti quanti. Riprendiamo. Guarda, mi che l'avevi lasciato in parcheggio. Ciao, ci sentiamo, buona serata. Scusa Massimiliano, ciao Salvatore, io anzi vado in quel Rex un attimino e rilancio Massimiliano con le scuse. Avanti Massimiliano. Massimiliano, passate al canale 10, io non ci facciamo niente qua, sennò già mi sto pagando io stasera, quindi passate al canale 10, almeno vediamo se entra qualcuno. Massimiliano, vai al canale 10. Ha ricevuto 10, io se rimango in quel Rex comunque. Grazie. aspetta un attimino, se no figurati, se no ti avrei lanciato. Stanno facendo i casini. Capito male io, quindi in primis chiedo scusa. Avanti Salvatore. Beh, io comunque come minimo saluto intanto Massimiliano, che non avevo copiato prima, e saluto anche se ci sono altre persone, perché non ho idea, io ero appena arrivato sul 5 e ci siamo spostati qua, per cui comunque saluto lui Massimiliano, casomai vediamo un attimino se c'è qualche altra persona, lasciamo un attimo uno spazio e così vediamo se c'è qualcun altro, rifacciamo un po' di ordine. Ciao Salvatore, io ho voluto puntualizzare questa cosa perché va bene ascoltare, però chiedo un record, ti fanno entrare, poi ti lasciano mezz'ora fermo, non mi sembra giusto, perlomeno. Non ho mai fatto una polemica su questa cosa, capito? La faccio io e succede il finimondo, la fanno gli altri e tutto può andare bene, ma comunque va bene così, Non c'è problema, ciao Salvatore, ti saluto, buonasera, ben entrato. Ciao Massimiliano, ma tu sei in paramobile? Come? Sei in paramobile? No, negativo, perché? Perché sento molto rumore in sottofondo quando parli, quindi ho pensato che fossi in condizioni di trasmissione mobili. Ma in che senso rumore sottofondo? Ma fai entrare roba leggera? No, mi sembrava proprio un rumore, sai il rumore che si trasporta quando sei dentro un'auto, per cui senti comunque altri rumori di sottofondo, ecco, non mi dava l'idea di che tu fossi dentro casa, ecco. Non lo so. Comunque la radio sembra che stia andando bene. Questa cosa non può, i segnali sono un pochino più bassi, giusto Claudio era un attimino più basso, ma qui sta andando bene, siamo quasi 9:20, 9:20 Antonio, quindi i segnali sembrano giusti, la radio sta scaldando. No, sta scaldando e sta raffreddando, si sente, mi si era attaccato un attimino l'alimentazione. Comunque stai arrivando forte, l'aria bomba e Smith è incollato. Anche tu senti i rumori sottofondo, Anto? Ma perché sta pescando troppo il microfono, cioè si sente che è molto aperto, capito, e si sente il rumore della ventola. Ascolta, se abbasso un pochino il mic così lo metto a 2. È la stessa cosa, cioè rimane aperta a livello di frequenze la radio e stai diminuendo solamente l'amplificazione, capito, il volume, però è un microfono che pesca molto, cioè si sente un ambiente dietro, capito? Eh sì, quello è vero. Va bene, vai, ok, vediamo un po', Gigi. Niente, Gigi non c'è, Salvatore, prendi tu. Cappa, ok. No, questa sera ho fatto un bel giro in 20 e 15 metri, soprattutto in 15 era silenziosissima la frequenza, nonostante temporali e quant'altro, è stato veramente piacevole. Mi dovete scusare un attimino che mi hanno squillato da giù un attimino, sono andato anche il citofono, vengo subito. Sì, non c'è problema. E non c'è bisogno che se ne scappi, Claudio, già, non fare l'ognuno, io, capo di Bugne. Claudio, io rientro. Aio, chi devo questionare? Io lo state confondendo, che sta parlando in frequenza monitor, adesso ci sta ascoltando e perde la favella. Si vede che non riesce a portare a termine il discorso, Claudio. Già lo so che c'ha un orecchio qua e un orecchio là. E poi vanno tutti quanti mi vogliono convincere a comprare radio per le U e per le V per diventare matto per provare ad ascoltare contemporaneamente su 50 canali e cercare di parlare contemporaneamente in altrettanti 50 canali, guardate, una cosa che non farò mai. E vabbè. tutti e si spostò di solco. Non riesco a capire queste cose. Scusatemi, comunque è arrivata gente un attimino. Arrivo fra una decina di minuti, se ci siete ancora, dai. Ehi, ehi, positivo. Va bene, va bene. E vabbè, Salvatore, magari con più antenne si può organizzare in diverso modo, capito? No, ma non riesco a seguire proprio il principio, Massimia. Non riesco a seguire due o tre discorsi che vengono fatti su due o tre canali differenti, capito? Sono piacevole ascoltare in uno, continuo ad ascoltare in quello, poi quando mi scoccio cambio. Ecco. Sì, vabbè, potete anche tranquillamente ascoltare da una parte e rispondere dall'altra, quello potreste farlo tranquillamente. Però ascoltare da una parte, poi c'hai un QSO da un'altra parte, non sta bene. Registrato il break, avanti, buonasera, siete in compagnia di Salvatore e di Massimiliano, avanti. Ciao, buonasera, mi sono in questa parte, buonasera entrambi. Io stavo facendo un giro, stavo cercando di prendere un amico, se ancora avete sentito, Gio Maria a Figaro. Ma io non sento nessuno, No, negativo, io ho acceso anche relativamente da poco e non ho sentito, per cui non so che dirti, sono in compagnia di Massimiliano, te lo rilancio, Massimiliano. No, io non ho sentito neanche chi fosse, non lo sento. Capano, non ti sente Massimiliano. Capo, io lo sento piccolino e vabbè, io sto anche... Non so da dove sta trasmettendo, dove sta trasmettendo? Sento una pretesa per... Io sento molto disturbato, molto problema, un po' troppo, lui non so cosa sabbia sotto, a te ti sento benissimo, lui no. Salve! Capo, no, anche lui non riesce a sentirti. Vabbè, non fa niente, dai, ci saranno nuove opportunità. Rimani qua? Capo, io sono chiamato ad altri lavori, rimango in ascolto e comunque salutalo a parte mia, già all'interno da questa parte. Salutalo, non so se potete fare un'antenna più decente, potete arrivare dove ci arrivava prima. Capo, ok. Massimiliano, ti saluti da Gianni Zorra, piacerti un'antenna più decente, così arrivi dove arrivavi prima. Gianni Zorro. Vuoi che ti dica? Ma c'è un altro break, c'è davanti un altro break? Aspetta, me ne ascoltavo un secondo, se mia figlia mi chiama. Vai tranquillo. Gianni? Allora, lo sparviero. Ok. Claudio. Avanti. E quattro, Claudio. Prendonia. Buonasera. Ciao, sono Luigi qua. Massimiliano, mi ha sentito? Massimiliano, non mi senti? Chi è? Sabato, ma uscendo sto? Sì, sono 9:20, sei qua a casa. Ok, ciao. No, perché ho chiamato 4-5 volte, ma non sentivo risposta. No, avevo risposto a Massimiliano che stava chiamando Claudio, ma è a 5:25, dunque è impegnato in un'altra frequenza. Però io mi sono stato un attimino sul 5, adesso sono ritornato qua, ci sto sentendo per la prima volta. Ok. Va bene, d'accordo. Sono sì, in questo canale, non c'era più nessuno. Ma c'era prima Claudio, poi c'era Massimiliano. e Antonio Grolle. Sono che per un motivo che per l'altro si sono allontanati e quindi niente, io tra qualche minuto mi allontanerò. E tu fresco di spazzolata? Sì, ho appena acceso, ho sentito, no, stavo ascoltando io in 144, 145, 525, stavo ascoltando. E poi sono passato subito con mio acceso, ho sentito, ma ci vediamo che stavo chiamando Claudio. Infatti ho detto, no, guarda che è sull'altra banda e dunque, ma non ho sentito risposta da parte del massimiliano, evidentemente avevo chiuso. Probabile. Accidentaccio, c'ho le stazioni grandi su questa antenna, che barba. È la Game Master stai usando o l'altra? No, la Game Master. La Game Master. L'altra ero prima sui 15 metri. Adesso per non far lavorare l'accordatore nuovamente. Poi insomma comunque c'è una performance migliore con questa qua, solo che non c'è brutto tempo, dato che inevitabilmente tendono a salire le stazionali. Ok, dopo un discorso che abbiamo fatto l'altro giorno su quell'antenna lì, ho guardato tutte le caratteristiche al computer, sì, dico che mi piace, come caratteristiche mi piace, la verità, è un po' cara, 158 euro, insomma, sono tanti, ma perché, come mai ti si aumentano le stazionali, cos'è, delle fluttuazioni, cosa? No, guarda, il discorso è che... ho accordato nuovamente qua sul, per non stare ad accordare, ad usare l'accordatore del transceiver ogni volta, trovo più comodo utilizzare direttamente l'accordatore da palo quando lavoro in HF. Con la Game Master praticamente ho visto che non c'è una grande differenza quando uso l'accordatore della radio, perché praticamente hai visto anche tu dalle caratteristiche, è preaccordata quell'antenna, per cui vai proprio a limare qualcosina di infinitesimale tutto sommato. E ho visto però che adesso K1 è 3 in questo momento, quindi probabilmente il tempo la sta un po' sollevando. Sì, beh, in effetti, no, perché sono pensando, no, ormai tu lo usi perché va utile anche per 10 metri nell'accordatore, se no non ce ne sarebbe bisogno, confermi, e senza avere il problema del rosso troppo alto. E infatti guarda, in questo momento sta accordando ed è 1 e 2. Se tolgo l'accordatore sale a 1 e 3, quindi cioè non c'è un granché di differenza, ecco. Non ho capito, sì che praticamente si può utilizzare anche se fa l'accordatore, cioè tu stai utilizzando quell'accordatore perché è un tuo modo di fare, ma niente di tu, no? Perché effettivamente è necessario. Esatto, guarda, ora se proprio prenderti conto, ora che ho tolto l'accordatore, la portante muta è 1. Ho capito. E come questione di TV hai, te ne va? No, TV ormai ce la dimentichiamo, con i segnali che sono ormai in digitale terrestre, non ci sono più quei problemi, non ci sono più problemi di TV. Sono proprio due modalità di trasmissione che non si interferiscono più. Sì, quello lo so, no, ma non ho chiarito io bene la domanda. Intendevo, se tu carichi un pochino di watt è uguale, non riesco più nessun problema. No, assolutamente no, anche perché comunque il massimo carico che posso dare su quest'antenna è 1 kilowatt, e 1 kilowatt non ce l'ho, posso arrivare a dare i 50 watt che dà come massimi in il questa trasmittente. E basta, quindi cioè i limiti dell'antenna non riesco proprio ad apprezzarli. Ho capito, praticamente i 100 watt dell'apparecchio trasmittente, ho capito. Che apparecchio usi, lo posso sapere, o hai difficoltà a dirlo? Ma guarda, io lavoro praticamente con un HF, con un Marco Quinto, un Yaesu FT1000 MP. Sì, ho capito, praticamente Marco Quinto sembra il top della KF, molto molto molto bene. Ok, almeno per sentito dire, poi io non ho di HF, non ho nemmeno la patente, dunque non. Ma per sentito dire so che è il top della KF. È uscito nel 96, nel 96, fine produzione 2002, forse 2003, gli ultimi modelli, forse 2003 sono stati, e poi nel frattempo sono usciti ben altri, però questo è effettivamente un apparecchio da guerra. Una volta, recentemente, mi ero dimenticato addirittura di attaccare il cavo al PL, è proprio dimenticato, trasmettevo e non riuscivo a capire perché avevo queste ROS alte, e trasmettevo anche con in banda laterale, con stavo sparando watt, dicevo boh, porca miseria, non accorda l'accordatore, non accorda l'accordatore a quello da palo, ed era perché c'avevo il cavo staccato, però l'apparecchio rispondeva benissimo e staccava e mi ha preservato il finale. Ok, sì, può essere che ci sia qualche circuito di inflazione, evidentemente, trattandosi di un apparecchio di quel calibro lì, probabilmente, cioè, lo dovessi usare per un bel po' di ore, cioè di minuti per prima di fare danno, ma non lo usi. Sono contento che non ci è successo niente di danno, ci mancherebbe altro. Va bene così, sabato, molto molto bene. Ok, mi prendi. E niente, quindi sono le peculiarità di questi apparati, quindi di riuscire a innescare una serie di sistemi di protezione per salvaguardarlo. Credo che su questa fascia poi comunque tutti quanti i nuovi penso che siano dotati della circuiteria necessaria a isolare i finali in caso di utilizzo anomalo, diciamo, da parte dell'operatore. Poi insomma si rischia di bruciare un bel po' di denaro. E niente, ma ho visto che va bene, risponde bene, sono contento. Cosa stai usando? Cosa detto, sto usando un baracchino di vecchissima data, di oltre 40 anni di vita, e il 50-24 era Tokai, 20 per canale, tipo in maniare, fra questi il 21 è normale, più l'11 alfa, pensa che manca il 23esimo canale, e niente di più. Sì, stavo dicendo, a livello di quel apparecchio lì, secondo me dovrebbero le case costruttrici fare anche una trappola, tipo un carico fittizio, in modo che se uno disgraziatamente o in maniera negligente così dimenticasse di attaccare il cavo o qualcosa del genere, l'apparecchio rimane protetto. Oppure se ci sia già, non lo so, questo è considerato che tu mi stavi dicendo che trasmetteva normalmente, evidentemente c'è qualche protezione tipo carico fittizio all'antenna, capito? Sì, io sentivo tac-tac, sentivo proprio il rumore di relè che entravano in funzione e quindi sicuramente sganciavano qualcosa la facevano. Mi ha detto 150, io l'avevo pagato anche di più, penso un po'. 150? No, io non ho detto 150, ho detto che 50-24 è la sigla del baracchino che sto usando io, è il Tokai 50-24, come sedia, no? Ed esattamente un apparecchio di oltre 40 anni, è vecchissimo, 22 canali, la 1-22 più l'11 alfa, praticamente 26 canali in tutto, è così che ho detto, forse non mi hai ascoltato bene. Sì, sì, no, per la radio sì, ok, stavo facendo riferimento alla costruzione dell'antenna, mi ha detto che l'hai vista a 150, no, parlato anche di più. 158, io l'ho vista, aspetta, in quale, a quella media globo, un qualcosa del genere, quel sito lì, 158. Esatto. Io ho pagato a 172 mi sembra, 172 sono 175, mi era venuta comunque con il compenso di corriere, quindi può darsi che forse un 10 euro, 10-12 euro di corriere, quindi un 160, e siamo lì. Sì, infatti no, il prezzo base dell'antenna, poi il corriere non lo so, infatti in effetti sarà 12, 13, 15 euro, non lo so, se ci arriviamo con la cifra che hai parlato tu. È costosa, sinceramente è costosa, è molto, ha 4,20 da 1,92 m l'uno di lunghezza, sicché si va oltre, quasi 8 metri si va, oltre 7 metri abbondanti. Sì, 7 metri e 7,70 mi sembra, 7,60, 7,70, montata tutta quanta, però bella resistente, sono contento. Ok, sì, no, è molto bello sicuramente, intanto perché hanno fatto delle prove tecniche con una strumentazione di primo grido, diciamo, dunque quella sì è una ditta abbastanza seria, non lo sappiamo benissimo da sempre, e come volevo dire, e poi il vantaggio che su tutta la gamma dai 25 sino ai 30 ha sempre quel valore di risorso, non cambia niente, però sanno quello che è scritto sul testo che ho letto al computer. Sì, è così. Addirittura io l'ho provata, diciamo che risuona da 24,6. Da 24,6 sino a 30 risuona. Sì. In effetti, 400 canali anche oltre, parlando sempre di questa frequenza qua. Va bene. Poi tra l'altro ha il vantaggio che funziona anche in 10 metri, sì, che quello è anche una gran bella cosa, perché diciamo che un'antenna praticamente che si presta anche per l'HF, se poi si utilizza la coda per l'antenna, allora tanto meglio, già lavora in 10 metri e allora può lavorare su tutte le frequenze HF. Ma su tutte le frequenze HF non ci ho provato nemmeno, però io mi accontentavo intanto di far lavorare 10, 11, 12 metri in pratica di penne, perché 12 vanno da 24, 8, 90 e questa risuona da 24,6 per parlare da 24,9 come radioamatore, per cui sei già dentro nei 12 metri con questa di antenna e riesci a starci sino alla fine dei 10 metri dei 9,7 per intenderci. Bene, ok, ho capito, bene, no, è interessante, la verità, costosa ma è un'antenna molto interessante. Poi stanno le prove tecniche che hanno fatto a una percentuale di emissione più lunga, più profonda di qualunque 5 ottavi, perlomeno se hanno scritto la verità, pure questo non lo sanno loro, ma suppongo che sì, però, perché la Sirio è una ditta Sirio, Sì, assolutamente. Io poi avevo un tempo fa, per rendermi conto effettivamente di quanto fosse buono il prodotto, avevo fatto anche delle ricerche su internet, avevo trovato dei filmati di prove in 10 metri con l'FT 5000 della IAESU e con questa antenna e l'amplificatore, il Quadra, che arriva sino a 1 kW, e hanno avuto, filmavano appunto la chiusura di alcuni collegamenti fatti proprio a long distance, a riprova della bontà dell'antenna, quindi insomma bontà ricevitore, bontà trasmettitore e bontà antenna. Quindi io ho capito insomma che non erano proprio solo degli spot pubblicitari le caratteristiche sbattute sul sito riguardante queste antenne, e quindi ho optato per l'acquisto. Sì, infatti, no, ho visto anche lo spettro delle prove, insomma, diciamo, non penso che una ditta come la Sirio potesse pubblicare delle cose che non rispondono a verità. Sicuramente se le hanno fatte queste prove, evidentemente sono prove serie, poi con strumentazione come si deve o come loro hanno. Di conseguenza va bene, tutto programmato al computer, dunque più precisa di così, vabbè. Molto bene, sì, in effetti anche in ricezione, è chiaro che il ricevitore 5000 riceve di più, se c'è un'antenna che ha una sensibilità maggiore, è chiaro che anche il ricevitore ne trae vantaggio, oltre al fatto che l'apparecchio è ultimo, no? Sicuramente migliore di tanti altri. Va bene così, ho saluto. K. Sì. Oh, aspetta un attimo. Ecco qua. Siamo ritornati a posto. Adesso stavo passando al minimo il vantaggio, tanto non c'è bisogno perché. Dov'è che sei? Ricordami, la zona di Monteoro. Oh, magari forse Monteoro, i punti sono, nel fosso dei punti. Esattamente dove abito io sono a 135 metri sopra il livello del mare. Praticamente rispetto a Sassari perdo 90 metri, una cosa del genere, il livello del mare, sì che si può immaginare. Monteoro è alto e Monteoro sarebbe un gran bel vantaggio. Ma chi è che era l'altro CB che era a Monteoro? Non mi ricordo. Vittorio, non mi ricordo il nome relativo di frequenza, Vittorio comunque, l'altro CB, poi ai radioamatori ce ne sono altri, lo saprai, no? C'è Antonio, e poi chi c'è? Nessun altro mi sembra, boh. Ho capito. Ok, 18.50, carissimo, io ti devo salutare, che ho da fare una commissione e quindi mi devo preparare un attimino, posso riprendere più tardi, non subito, devo uscire un attimo. Ok, ciao Sabato, grazie per il questo, per le informazioni e tutto, sì, grazie per aver smesso perché è arrivato mio fratello qua, dunque devo scendere giù in tavoletta perché c'è mio fratello con mia cognata, ci sentiamo le prossime. Ciao Sabato, salutoni, ben ascoltato sempre da parte mia, ciao ciao. Ciao carissimo, ci sentiamo, a presto, e saluto a tutti quelli che sono in ascolto, arrivederci, ciao ciao. Ok, ciao ciao.